Italia in controluce. 13:32 minuti, buongiorno da Alessio Maurizi, gentili ascoltatori. Ogni giorno a quest'ora andiamo a cercare, vi raccontiamo le storie della cronaca grande e piccola, fatti, personaggi che ci danno un punto di vista diverso. Questo è l'Italia in controluce. Quasi due anni fa, a questo punto, il centrodestra ha vinto le elezioni puntando molto, moltissimo sulla sicurezza. Il governo ha fatto diversi provvedimenti in questi mesi, spinto soprattutto dalla Lega, dal ministro Maroni. Adesso però a Milano, dopo gli scontri di via Padova, ci si accorge che c'è un nervo scoperto. Pezzi di città dove camminare per strada, finire in mezzo a una rissa, a un accoltellamento, è un rischio possibile. È successo anche ieri sera con un marocchino accoltellato proprio ai margini di via Padova. Colpa di troppi immigrati, ha detto il sindaco Moratti. Ma chi dovrebbe proteggere i cittadini, cioè le forze dell'ordine e la polizia? Ha i mezzi per farlo, i mezzi sufficienti per farlo. Stando a quanto risulta dai numeri dei vuoti d'organico, sembrerebbe di no. Una storia che ci racconta Massimiliano Del Barba. Il problema sicurezza a Milano è innanzitutto una questione di risorse. Risorse che mancano da anni, a sentir parlare gli agenti di polizia che ogni giorno quelle strade le passano al setaccio. E le violenze in via Padova non hanno fatto che scoperchiare un vaso di Pandora sul punto di scoppiare già da tempo. A Lorenteggio, quartiere della periferia sud ad alto tasso di sorvegliati speciali e di presenza Rom, manca il 30% dell'organico. Stessa carenza a Quartoggiaro, zona tristemente nota quale covo di criminali e di spacciatori. Nel commissariato di Villa San Giovanni, quello che controlla via Padova per intendersi, addirittura il personale in servizio è la metà di quello previsto. Una situazione più volte denunciata dagli agenti, come ricorda il segretario provinciale del sindacato di polizia SIULP, Mauro Guaetta. Ma noi abbiamo chiesto due cose fondamentalmente. Innanzitutto a razionalizzare gli attuali presidi e ridisegnare il modello sicurezza sulla città. La città è organizzata in 9 zone e quindi anche i distretti di polizia dovrebbero essere 9 e non più 17, evitando così una serie di duplicazioni di ufficio. È evidente che anche l'aumento dell'organico non sarebbe certo male. Non da oggi che si è scoperto che viene Padova a questo tipo di situazioni. Non dimentichiamo un anno e mezzo fa la situazione in Viale Sarpi. Non dimentichiamoci Quartoggiaro, il problema è che manca chiaramente un progetto sulla sicurezza a Milano. Una patologia generalizzata, quella della carenza d'organico, di cui i commissariati milanesi, come afferma il segretario dell'Associazione Nazionale delle Forze di Polizia, Enzo Letizia, non rappresenta che la punta di un iceberg che si estende su tutto lo stivale. La Polizia di Stato soffre di una grave carenza d'organico. Quello previsto per legge ammonta a 105.000 unità, mentre oggi siamo poco più di 95.000. Questo è il problema della sicurezza italiana. Sono aumentati i bisogni della gente in tema di sicurezza, non si è dato la possibilità di ripianare gli organici man mano che il personale andava in pensione. In polizia, gli agenti di polizia che sono nati nel 1989 sono appena 13. Nel giro di 7-8 anni, se non c'è un'inversione di tendenza seria nell'assunzione di poliziotti, la Polizia di Stato e la sicurezza nazionale non ha futuro. Intanto, mentre col passare dei giorni via Padova sembra essere ritornata a quel fisiologico livello di insicurezza che non fa più notizia, gli agenti milanesi qualche dubbio sulle logiche che oggi governano le politiche di sicurezza del territorio continuano a porselo. Per Guaetta e per il sindacato non basta qualche agente in più per le strade a scongiurare il dilagare della violenza. Non si sa in questo momento come organizzare la sicurezza, si trovano delle situazioni di emergenza, vedi se mandare i militari, come il ministro La Russa dice, ma non si dà una soluzione strutturale, sono soluzioni emergenziali a un problema di natura strutturale. Non si può creare un commissariato per ogni via, non si può pensare che la sicurezza venga garantita solo da un numero di divise, perché Viale Padova, tanto per essere molto precisi, è stata una delle vie particolarmente attenzionate dalle pattuglie miste volute dal nostro ministro La Russa, ma mi sembra che le pattuglie miste non abbiano fatto portare a casa i risultati sperati, visto quello che è successo. Italia in controluce. Non solo Viale Padova, lasciamo Milano alle prese con i suoi vuoti d'organico nei commissariati di polizia, seguendo i percorsi dei nuovi insediamenti di immigrati in Italia. Arriviamo a Genova. Nel capoluogo ligure si discute del fenomeno delle gang di stranieri che, come abbiamo appena sentito, i fatti di Milano ci hanno fatto scoprire a livello nazionale, forse per la prima volta in modo così netto. Gruppi di giovani immigrati, in genere di seconda generazione, che vivono la città, a modo loro spesso però ai limiti della legalità e anche oltre questi limiti. A Genova se ne parla, sui giornali se ne discute, in mezzo alla strada. A preoccupare in particolare sono le cosiddette gang di sudamericani. Però ci sono anche proposte e soluzioni positive. Andrea Ferro ci guida tra Carrugi e Latinos. A Genova sono più di 15.000, quasi tutti vengono da Guayaquil. A trascinare il flusso migratorio sono state le donne. Sono partite dall'Ecuador per fare le badanti, le colf, poi piano piano una carovana ha attraversato l'oceano. A Genova la comunità ecuadoriana è di gran lunga la più numerosa d'Italia. Le donne lavorano, gli uomini un po' meno. I figli crescono incamminati su percorsi accidentati che alla fine quasi sempre seguono un'unica direzione, la strada, intersecata tra le banlieue nostrane plastificate dai centri commerciali. Di qui le gang dei latinos, fenomeno sociale e criminale che ad intervalli schizofrenici ingolfa la cronaca cittadina. Risse, vandalismi, feriti e pure morti ammazzati, tre in meno di due anni. Birra, coltello, prepotenza, sopraffazione. Latin King, Nietas, Diamantes, Black Panthers, tanto per citare i nomi di alcune delle bande che spadroneggiano. Ora Casa Nuestra, un centro di aggregazione di San Pier d'Arena, propone un percorso formativo costruito su un'asse generazionale sotto la quale far scorrere l'integrazione. Coinvolge gli anziani soli, a Genova sono migliaia. Toccherà a loro prendersi cura dei bambini, negli studi, nelle attività ricreative, per colmare il vuoto creato da menage familiari problematici e riempire giornate altrimenti vuote. Osmara Muñoz Gomez, di Casa Nuestra, spiega l'iniziativa. Come idea i nonni, perché sicuramente hanno molta più esperienza, hanno già fatto i genitori, poi penso che siano delle persone con una certa cultura, che abbiano dietro un cofanetto di esperienze culturali e una certa morale da aiutare a crescere i bambini stranieri che vengono un po' trascurati, sia per mentalità diversa, sia per spazi come tempo, per riuscire a tenere i propri figli. Ci sono tanti pensionati, tante persone che magari sono autosufficienti, che riuscirebbero a riempire la loro vita con queste piccole creature, che darebbero anche un senso a queste persone di trovare uno scopo nella loro vita. Ma come avviene l'avvicinamento dei ragazzini alle bande dei latinos? Un reclutamento fondato su prove di forza e riti di iniziazione. Si forma un gruppo che gli dà un po' più di sicurezza e aiuta tramite la delinquenza o piccoli gesti vandalici a richiamare l'attenzione dei popoli e dire sappiate che noi stiamo, vogliamo essere riconosciuti di qualcuno. Gente che ragazzi che magari non hanno l'attenzione dei genitori, nemmeno delle persone italiane, perché poi i vandalismi, perché vogliono appunto richiamare l'attenzione. Individualmente sono ragazzini smarriti, non sanno da che parte andare, sono stati catapultati in un'altra realtà, spaesati dal loro paese, che ci sono delle abitudini diverse, culturalmente diverse, catapultati così dai loro genitori per tenerli un po' più vicini, ma poi vengono trascurati, quindi questi ragazzini appunto non sanno, da soli non sanno dove andare, sono impauriti da un'altra realtà che non conoscono, perché non hanno il valido aiuto e il supporto, il sostegno necessario per capire la vostra cultura. 13:42 minuti, è tutto per Italia in Controluce, un programma realizzato con il coordinamento di Daniele Biacchessi, in regia Pietro Lacorte. Vi ricordo i nostri indirizzi per scriverci le vostre storie: controluce@radio24.it oppure Radio24 Italia in Controluce. Siamo anche su Facebook. Ci sentiamo lunedì prossimo da Alessio Maurizi. Buona giornata.